è una serata che aspettavamo da parecchio tempo, perché nel 2018 l'avvocato Arnaldo Luner, che è l'ospite graditissimo di questa sera, ha deciso di donare alla biblioteca provinciale, che ha la sede proprio qua sotto al piano terra, una parte del proprio fondo, che come sapete, voi tutti lo conoscete bene, ecco, è un cultore dei libri, è un grande esperto e conoscitore anche del libro antico, del libro pregiato, e negli anni ha appunto raccolto e così costruito una raccolta soprattutto anche dedicata a temi forti come la storia moderna e contemporanea, in particolare sulla Shoah, sul razzismo e altri temi ad essa connessi. Questo era un cavallo di battaglia, lo è tutt'oggi anche della biblioteca provinciale, per cui è stato anche così l'occasione di ritrovarci, ci siamo trovati a casa dell'avvocato, e poi da lì è nata questa idea da parte sua di mettere a disposizione del pubblico, della cittadinanza, di tutti coloro che sono interessati a conoscere, ad approfondire certi temi delicati, ecco, questi libri. Nella convinzione, ma poi lascerò la parola al nostro ospite, che questo è un impegno civile di diffusione della conoscenza. La conoscenza è un'arma potentissima per rendere le persone libere, autonome e immuni da virus che possano contaminare e così impedire una visione realistica e veritiera di quello che ci circonda. Purtroppo siamo sempre deficitari, perché ci mancano spesso delle attrezzature per capire e comprendere nel momento esatto quello che sta avvenendo e le sue ripercussioni in un'ottica futura. Però siamo sempre convinti che la lettura, il libro e soprattutto l'impegno che da anni porta avanti l'avvocato Lohner di diffusione con dibattiti, l'incontro con le scolaresche, le mostre che vengono così curate presso il Museo Civico, la ricordo quella anche delle illustrazioni, cioè questo amore per la diffusione della cultura nei suoi vari aspetti, perché poi appunto si dedica anche all'illustrazione dei libri per bambini. E ci sono tantissimi aspetti, ma poi ci racconterà in prima persona anche le proprie esperienze e quello che lo ha portato anche ad avere un amore così grande per i libri. Io non aggiungo altro, lascerei la parola, anche perché abbiamo poi questa sera un filmato che è stato portato. Ringrazio ancora l'avvocato, vi ricordo che al momento sono 600 i libri che abbiamo catalogato e che ci sono arrivati qui in biblioteca, sono tutti nella sala grande del piano terra, e quindi sono anche a disposizione di chi avesse piacere di leggerli, di consultarli o di prenderli in prestito da portare a casa. Grazie ancora. È acceso? Sì. Sì. Allora, stasera parliamo di libri. I libri di cui parliamo, che sono il tema del nostro incontro, sono libri che hanno una base, un fondo comune. Sono libri che parlano della grande tragedia dello sterminio nazista, che parlano delle ideologie nazifasciste, che parlano dei centri di sterminio, quelli che Hannah Arendt ha definito fabbriche di cadaveri. Sono libri che ci raccontano la grande enorme tragedia che è avvenuta all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Questi libri sono una memoria. Ci sono i libri degli storici, ci sono le voci dei sopravvissuti, ci sono le testimonianze di coloro che sanno, hanno saputo, hanno visto, ci sono le riflessioni degli studiosi. Questo enorme materiale che attraverso tutti questi anni, dal 45 ad oggi, ha delle dimensioni veramente straordinarie, questo enorme materiale ha un obiettivo comune: formare la memoria. Nella prima fase, faccio una breve sintetica descrizione di questa letteratura, nella prima fase c'erano i sopravvissuti che volevano far sapere, che volevano comunicare, che volevano dire quello che era accaduto. Tra questi, ad esempio, c'è il nostro illustre concittadino, il notaio Pantozzi, che, tornato da Mauthausen, all'ospedale di Bolzano, pesava 35 kg, mi ha raccontato il fratello Giuseppe, ha chiesto carta e matita e ha cominciato a scrivere il suo splendido libro Sotto gli occhi della morte, da Bolzano a Mauthausen. Pesava 35 kg, ricoverato all'ospedale di Bolzano, ha voluto cominciare a scrivere, ha voluto far sapere. E pensate che questo libro risulta essere stato acquisito agli atti del Tribunale di Norimberga, il libro di Pantozzi, come documento probatorio, agli atti del processo contro i vertici dello Stato nazista. Pantozzi è arrivato a Bolzano nel suo gruppo, della sua baracca, erano 51, erano al momento della liberazione sopravvissuti in 8 e 5 sono morti nei giorni immediatamente successivi alla liberazione, sono rimasti vivi in 3. E Pantozzi ha scritto questo libro che ci dà la notizia, che ci dà la cronaca della sua, del suo internamento nel campo di Mauthausen. Primo Levi ha scritto Se questo è un uomo già alla fine del 46, e pensate che Einaudi, a cui l'aveva proposto, lo ha rifiutato, non lo riteneva interessante. C'è stato un piccolo editore, Da Silva, che ha pubblicato Se questo è un uomo nella prima edizione, perché Einaudi non l'aveva voluto. Che cosa volevano questi reduci dai campi di sterminio? Volevano combattere contro il tentativo nazista di cancellazione della verità, di occultamento della verità. Non dimentichiamo che i nazisti hanno fatto saltare con la dinamite e con l'esplosivo le camere a gas di Auschwitz-Birkenau e i forni crematori. Volevano cancellare le tracce dei loro misfatti. Hanno bruciato e distrutto i registri dei lager. Anche i registri del lager di Bolzano sono stati distrutti. Anche i registri del lager di Bolzano. E noi dobbiamo allo sforzo di Dario Venegoni e i suoi collaboratori se sono riusciti a ricostruire 7.805 generalità di prigionieri del lager di Bolzano, che all'incirca però sono stati 10.000, non di tutti, perché i registri del lager di Bolzano sono stati fatti sparire. Primo Levi, nella prefazione al suo libro I sommersi e i salvati, ci dice che i nazisti li irridevano e li ammonivano cinicamente, dicevano: in qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l'abbiamo vinta noi. Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma anche se qualcuno scampasse, il mondo non li crederà. E quando anche qualche prova dovesse rimanere e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere veri. Questo scrive Primo Levi nei Sommersi e Salvati. E Primo Levi dice nei suoi libri, in questo uomo, ripetetelo ai vostri figli, raccontatelo, comunicate. C'è questa disperata volontà dei sopravvissuti di dare notizie, di dire che cos'era il campo di sterminio nazista. E questo è un momento storico importante subito dopo la fine del conflitto mondiale. Poi però sopravviene una specie di oblio. La storia di questa letteratura sembra rallentare, sembra fermarsi. Ecco il processo Eichmann nel 1961, che c'è un grande risveglio di interesse. Prima c'era la volontà di ricostruire, la gente non voleva pensare alle tragedie del passato, voleva ricostruire un nuovo mondo secondo principi di libertà e giustizia, e si dimenticava la tragedia dei lager nazisti. Poi però col processo Eichmann c'è un risveglio di interesse, comincia una nuova fioritura di studi, comincia una nuova ampia diffusione di scritti, e poi siamo arrivati agli ultimi 30-40 anni in cui c'è un'enorme letteratura. Addirittura ci sono i novantenni oggi che si mettono a scrivere le loro memorie, che si rendono conto della necessità che questa loro memoria personale si traduca in una memoria collettiva. I novantenni, ma ormai sono pochi. Un mese fa è morta Maria Teresa Scala, che al processo di Verona contro il carnefice del lager di Bolzano Seifert, io ho sentito testimoniare e raccontare che lei aveva visto rinchiusa in una delle sbarze celle del lager di Bolzano, di cui i due guardiani ucraini, Seifert e Sain, si erano dimenticati di sbarrare la porta. Lei aveva sentito urlare un giovane che era nella cella davanti alla sua e ha aperto la porta e ha visto che veniva ucciso dai due ucraini ficcandogli le dita negli occhi. È morta a 99 anni un mese fa. Noi abbiamo avuto una memoria trasmessa, una memoria che è passata attraverso le menti, le voci, le testimonianze dei sopravvissuti, è passata a noi, ma quella memoria vissuta, non trasmessa, quella memoria vissuta è finita. Ormai la memoria è nei libri, è in quei libri che oggi sono nella biblioteca Claudia Augusta, però quella è una memoria immobile, i libri negli scaffali sono muti, sono silenziosi. Quella memoria importante, depositata, deve passare, deve essere trasmessa. Io dico agli studenti nelle scuole, voi siete i portatori della trasmissione della memoria. Voi siete coloro che possono portare avanti, possono proseguire nel lavoro della memoria. Questo lavoro fondamentale. Ma perché è un lavoro fondamentale? È un lavoro fondamentale per tre ragioni. Consentitemi una breve illustrazione del significato della memoria, a cui io personalmente attribuisco un valore enorme. La memoria è prima di tutto frutto di un dovere. Noi dobbiamo sapere, dobbiamo conoscere per rispetto verso la morte e la sofferenza delle vittime. È un dovere. Un dovere, ma è anche un valore. La memoria, la conoscenza è un arricchimento spirituale, è una possibilità di arricchire la nostra personalità. Se noi non sappiamo la storia dei crimini nazisti, noi manchiamo nel realizzare le nostre persone. È una carenza, è una lacuna. Noi dobbiamo sapere per noi, non soltanto per trasmettere agli altri. Io dico sempre ai giovani, voi avete questo compito straordinariamente importante, quello di essere gli autori della trasmissione della memoria, però per sapere, per ricordare che cosa è necessario, conoscere. Non si può ricordare quello che non si sa. Non si può ricordare quello che non si sa. Ecco quindi che questa memoria trasmessa, visto che quella vissuta è finita, questa memoria trasmessa è veramente di importanza straordinaria. Ma non solo come dovere, ma non solo come valore, c'è una terza funzione fondamentale della memoria ed è una funzione di difesa. La memoria è una difesa contro il risorgere dei fantasmi del passato. Se noi sappiamo, possiamo contrastare, se noi sappiamo, possiamo respingere, possiamo criticare, possiamo batterci per ostacolare, perché voi sapete che purtroppo nei nostri giorni l'ideologia nazifascista ricresce, si diffonde, noi vediamo sventolare vecchie bandiere, noi vediamo marciare figure, immagini, gruppi che ci ricordano un tragico passato. E allora la memoria, il sapere sono strumenti di difesa fondamentale, è uno scudo che abbiamo la memoria. Per questo noi dobbiamo sapere, per questo io ho il piacere qui di vedere i miei due nipoti che mi ascoltano e ho pensato, io mi auguro, certo non leggeranno 600 libri sull'Olocausto e sulla Shoah, quei 600 libri che la biblioteca Claudia Augusta ha trasferito in uno scaffale. E se no verranno qui a prenderseli, perché in effetti questo sapere che adesso è completo, perché adesso noi sappiamo le riflessioni intellettuali, gli studi degli storici, l'impegno massiccio di decine di studiosi di tutti i paesi d'Europa, se non del mondo, hanno costruito una letteratura, quella letteratura che fa parte di quei libri. Hanno costruito un mondo di conoscenza che è veramente vitale, che è veramente fondamentale, però quel mondo di conoscenza è muto, noi dobbiamo attingere a quel mondo di conoscenza e soprattutto devono attingere i nostri figli e i nostri nipoti. Io non voglio dilungarmi, ho voluto esprimere alcuni sintetici elementi, concetti, però voglio fare una cosa che in genere faccio anche nelle scuole, quando vado a parlare nelle scuole, vi voglio far vedere alcune immagini. Dov'è la nostra? Ecco, dunque, nei libri che sono alla Biblioteca Claudia Augusta c'è un libro che si chiama Album Auschwitz. Vediamo se arriva. Questo libro è un libro particolare. Tutta la documentazione che noi abbiamo proviene dalle vittime. La documentazione dell'Olocausto, le autobiografie, le narrazioni, i racconti vengono dalle vittime o dagli studiosi, dagli storici che hanno scartabellato migliaia di documenti, hanno studiato, hanno approfondito. Ma i nazisti hanno cercato, come dicevo prima, di cancellare, di occultare, di nascondere. Però c'è un libro che è stato fatto dai nazisti. Una ragazza ungherese nel 1944, i nazisti praticamente prendono il potere in Ungheria. L'Ungheria era stata favorevole al regime nazista, ma nel 1944 i nazisti addirittura prendono veramente il potere e cominciano a deportare gli ebrei ungheresi, che erano circa 400.000, ne sono stati deportati più di 300.000, che sono stati uccisi. Una ragazza ungherese di 18 anni, nel lager di Auschwitz, una piccola dipendenza di Auschwitz, perché lei era stata adibita ad un lavoro tessile, alla liberazione del lager, a freddo, perché vestita con una camiciola, eravamo in gennaio, era freddo, corre nel comando dell'SS, da cui le SS erano fuggite, per cercarsi un vestito, una giacca, e vede per terra un album di fotografie. È colpita da quest'album di fotografie perché, aprendolo, o era aperto per terra, riconosce la gente del suo paese, della sua città. Quest'album era stato fatto da un sergente dell'SS che, contravvenendo agli ordini, perché era vietato assolutamente fotografare e riprodurre l'arrivo delle vittime ad Auschwitz e il percorso delle vittime, questo sergente ungherese, che è stato poi identificato, ha fotografato praticamente tutto il decorso, il percorso, tutta la storia di un treno che arriva. Voi vedete, qui è arrivato il treno, si cominciano a buttare dai vagoni gli indumenti, le giacche, le valigie, avanti. Si cominciano a formare i gruppi. Ecco, sono tutti ungheresi della città di questa ragazza, che poi vengono frazionati, vengono divisi, perché, come si sa, il 70% dei passeggeri dei vagoni venivano ammazzati subito, non finivano nelle baracche ad Auschwitz, non ricevevano il numero sul braccio. Le donne incinte, i bambini, le donne con bambini di una certa, ancora piccoli, gli anziani, ma non gli anziani come chi vi parla, i sessantenni, venivano immediatamente accantonati e portati subito alla camera gas, non finivano nemmeno nelle baracche. E la ragazza sfoglia l'album, avanti. Questi sono i preparativi per la formazione della colonna che andrà alle baracche, che poi sarà mandata al lavoro, e quella che andrà alle camere a gas, avanti. E lei riconosce i suoi concittadini. Questi sono tre avvocati della sua città che moriranno, saranno uccisi, che hanno la stella gialla sul cappotto. Avanti. E questi sono i due fratelli della ragazza, che sono appena scesi dal treno e un'ora dopo moriranno nella camera gas. Ecco qua, i due bambini in primo piano sono i fratelli di Lili Jacob, a sinistra Sril Israel e a destra Zeli, sono stati gasati poco dopo il loro arrivo, sono appena scesi dal treno e un'ora dopo saranno morti nella camera gas. Noi sappiamo che ad Auschwitz è stato ucciso circa 1 milione di persone e sappiamo anche che 250.000, circa un quarto, erano bambini. Questo numero ci colpisce, ci impressiona enormemente, ma quando noi, al di là del numero, vediamo le facce di questi due bambini che tra un'ora moriranno, noi abbiamo qualcosa di più del numero. Abbiamo la percezione completa della gravità enorme, del male assoluto che mai nella storia dell'uomo si è verificato. Il discorso è lungo, abbiamo i gulag staliniani, ma mai si è verificata una cosa del genere. E l'attuale direttore di Auschwitz è un polacco. L'attuale direttore di Auschwitz aveva dato incarico a un gruppo di grafici di fare il nuovo logo del lager, di fare un logo, qualcosa che potesse essere messo sulle copertine delle guide, e il direttore di Auschwitz, poi è un polacco, ha detto no, ha cancellato l'ordine, andiamo avanti. Dovremmo trovare, vada, il bambino, il libro, dovremmo trovare il libro. Queste sono sempre, vada, perché ci deve essere, eccolo qua. Piotr Kavinsky, non c'è una fine, trasmettere la memoria di Auschwitz. Il direttore di Auschwitz ha deciso che il logo del lager doveva essere la faccia di quel bambino. Voi guardate la faccia di quel bambino, gli occhi di quel bambino. A me trasmette la consapevolezza di quello che sta per avvenire. Quel bambino appena sceso dal treno. E questo è il nuovo logo di Auschwitz. Grazie per l'attenzione. Se qualcuno vuol chiedere qualcosa in particolare, non lo so. Se... Dopo questo intervento, siamo, anche se magari sono concetti e storie che abbiamo spesso sentito attraverso i documentari, così chiaramente siamo tutti colpiti, no? Effettivamente l'immagine di un bambino consapevole, con uno sguardo così un po'. Impressiona, ecco. È impressionante. Grazie comunque, allora. Grazie. Se c'è qualcuno che vuole fare, ecco, prego, il prego. Il microfono, intanto. Signora. Dica, signora. Sì, buonasera. Parli forte, grazie. Sì, io vorrei il suo parere su una questione. Come lei ha detto, Primo Levi ha scritto che questo è mostruoso, no? Così mostruoso che sarà difficile crederlo, no? E usa anche un'altra parola, usa la parola enorme, no? Enorme e mostruoso quello che è successo. Io mi chiedo adesso che sono più avanti nell'età, no? È giusto portare questa drammatica notizia ai bambini così piccoli, degli elementari, delle scuole? Cioè, sono in grado loro di metabolizzarlo se non l'abbiamo fatto noi e non riusciamo a farlo noi? Non è troppo traumatico per loro? Guardi, grazie. Io nella settimana della memoria, dal 20 al 28 gennaio, sono stato in 7 scuole, in alcune scuole medie, in alcuni licei, e naturalmente il mio racconto è diverso ai bambini di 14 anni o ai ragazzi di 18, però mi creda, è necessario. Noi non dobbiamo pensare che queste vicende siano troppo tragiche, troppo tristi, e che i bambini si debbano occupare soltanto di cose meno pesanti o più liete. Per la loro formazione, per me è essenziale che comincino presto a sapere. C'è Casa Pound, ci sono le associazioni che cercano di prendere i giovani, di far iscrivere i giovani. Capisco che per un ragazzo di 14 anni queste notizie, che naturalmente io do in maniera un po' più addolcita alle scuole medie che non ai licei, però le racconto un episodio. L'ultima volta che sono stato alla Stifter, alla scuola media Stifter, è stato il 25 gennaio scorso, avevo 80-90 bambini nella terza media e ho raccontato la storia del lager di Bolzano, perché devono pur sapere che c'era il lager, devono pur sapere che nel lager di Bolzano non è che si giocava a carte, nell'agro di Bolzano c'erano i carnefici che uccidevano, che assassinavano, che stupravano, lo devono sapere. E quando ho finito la mia relazione sono uscito dalla scuola, ho fatto un lungo corridoio, ho aperto la porta, sono uscito dalla scuola e mi è corso dietro un bambino. Bambino di 14 anni, un bambino della terza media, che mi dice: scusi signore, e io mi fermo e dice: ma lei come si chiama? E io dico: ma io mi chiamo Lona, ma questo lo so, voglio sapere il suo nome. Beh, io mi chiamo Arnaldo, grazie signore, e va via. Lei che cosa, che significato dà a questo bambino che mi rincorre e vuol sapere anche il mio nome proprio? Gli do il significato che quello che ho detto è servito, che quel bambino ha capito, che nella sua mente si è impressa la tragedia e che quella tragedia lo condurrà a respingere le lusinghe o le iniziative più o meno disgraziate delle associazioni che oggi vogliono far rivivere il nazifascismo. Io sono convinto che ho fatto bene a parlare anche ai giovani di 13-14 anni e che devono sapere, devono prepararsi, devono crescere con la consapevolezza e non nell'ignoranza o pensando che, come dicono i negazionisti, nelle camere a gas si uccidessero i pidocchi per rendere più gradevole la vita dei prigionieri. Tu cosa volevi? Quanti anni ha il bambino? Come? Sa quanti anni ha il bambino? Quanti anni ha il bambino? Ma credo che abbia 9 anni, mi pare che avesse uno 9 e l'altro 11. Questo era il piccolo, il minore dei due fratelli, il più piccolo dei due fratelli. Benissimo. Dimmi, Ettore. Vorrei rispondere al signore che diceva che i bambini non vanno traumatizzati. No, era una domanda, mi sono posta. Ma no, ho la risposta a questa ipotetica domanda. Di la tua opinione. La mia opinione è questa. I bambini, specialmente una volta, ma anche adesso, crescono tra gli orrori dei racconti di Grimm, l'orco, la strega e via dicendo. Sono abituati all'orrore, in un certo senso, a me facendo paura. Io avevo dei parenti germanici che mi regalavano libri scritti in caratteri gotici, in modo che io mi teleschizzassi un poco, forse era questa la loro intenzione. Ed è un racconto che mi faceva veramente paura, anche perché le illustrazioni, i pretendenti che cercavano di salire Dornröschen, per esempio, no? E finivano ad essere avvolti dai rami puntuti dei rosetti e morivano là, restavano come scheletri. E io veramente ancora adesso parlo di cose di, sono 90-77 anni fa, insomma, no? Ecco, i bambini vivono in queste loro fantasie perverse che noi alle volte sollecitiamo appunto con i racconti di Grimm, con le immagini relative, eccetera. Se aggiungiamo anche qualcosa di vero a questo, penso che non posso far male. I bambini sono sicuramente traumatizzati da questi racconti, come non sono stato io, ma è altrettanto vero che se sopportano le favole di Grimm, possono sopportare anche questa realtà. Ma se posso dirti una cosa, non dimentichiamo che i giovani che giocano con le PlayStation hanno dei giochi di origine tra l'altro americana dove vince chi ne ammazza di più, che non mi pare una grande morale. Nelle favole dei fratelli Grimm c'erano situazioni estremamente tragiche, Paolo, essere Grete, ma Grete spinge la strega nel forno e la fa bruciare viva, c'erano situazioni tragiche, però alla fine trionfava il bene. Questo era il vantaggio delle fiabe dei fratelli Grimm, che Cappuccetto Rosso esce dalla pancia del lupo, che Biancaneve dopo la mela, dopo aver mangiato la mela, si riprende, trionfa il bene. Ma oggi c'è tutta una struttura per i ragazzi e per i bambini impostata sui giochi tecnologici, dove, ripeto, chi vince è quello che ne ha ammazzati di più, non che ha ammazzato più cattivi, che ha ammazzato di più, perché non si distingue tra buoni e cattivi. E quindi credo che i giochi giovani debbano sapere, poi sono anche preparati a capire. Io vedo molta attenzione, molta comprensione, vedo che bisogna raccontare. Poi non dimentichiamo Primo Levi, questo pilastro fondante della nostra letteratura, non solo sull'Olocausto, che ha detto: ripetetelo ai vostri figli, ripetetelo ai vostri figli. Prego, Fassotto Prima. A parte, volevo dare sintonia totale con il discorso di Frangi e con il tuo discorso. Ma per dire quanto è difficile la memoria, capisco i libri, ma ricordo un sito che è ancora attivo adesso, fatto dal presidente Eisenhower, che io ho mandato a Ettore, ho mandato a te, credo ho mandato al giornale, pregandolo di ricordare a ogni commemorazione, in cui il presidente, io ce l'ho ancora, se qualcuno vuole passo alla biblioteca, che lo è, in cui lui dice, si vede lui che parla, Eisenhower, vestito da presidente, che dice: adesso vi faccio vedere delle cose, primo per farle vedere agli abitanti della zona di Auschwitz che non sapevano niente o che dicono di non saper niente, poi ve le faccio vedere perché se non le facessi vedere io, presidente americano, nessuno le saprebbe più, perché verranno nascoste e ci sarà un momento in cui c'era della gente che dirà: non sono state possibili queste. E quindi il presidente degli Stati Uniti, che ha vinto la guerra, fa questo sito che non si sente citare mai. Io l'ho trovato per puro caso. Quindi tutti clicchiamo qualsiasi cosa, questo sito dovrebbe essere nelle scuole, per esempio, è un sito che non si potrebbe ignorare, perché lo dice un americano, il presidente di una potenza vincente, e in 5 minuti ti fa vedere quello che hai fatto, ha detto te, con lo stesso spirito, con la stessa commozione che hai avuto te e che hai suscitato in noi. Per esempio, questo è un sito da promuovere assolutamente alle nuove generazioni e nelle scuole. Beh, permettetemi di aggiungere che il comandante delle forze armate americane, dei carri armati americani, generale Patton, quando è arrivato a Bergen-Belsen, al campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen, dove c'erano 10.000 cadaveri insepolti di internati sparsi per il campo, ha mandato i soldati americani a prelevare tutta la popolazione della vicina città e l'ha fatta sfilare, uomini, donne, bambini, attraverso il campo davanti ai 10.000 cadaveri. Questo è il generale Patton. Grazie ancora, grazie.